Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Oi, no scusa, guarda la fotografia, sembra neanche un ragazzino, eh? No, io sono quello col vino, lui è quello senza motorino. Buongiorno, già fate stampare tutte le fotografie delle vacanze? Benvenuti ad una delle ultime puntate di Agosto, tecniche di sopravvivenza. Anche perché essendo oggi già il primo di settembre, almeno semanticamente sembra non avere più senso un programma come il nostro. Ieri ci siamo lasciati con le tecniche per la sopravvivenza alla nostalgia. Oggi è un po' come se parlassimo delle tracce di quella nostalgia, quelle di cui disseminiamo la nostra vita e quella di amici e parenti, tra un viaggio ed un altro, ovvero le fotografie e i filmini che produciamo in gran quantità per dare testimonianza delle nostre vacanze. Chi può dirsi esente da tale pratica, che ha già stufato milioni dei suddetti amici e parenti? Sono sicura che a tutti è capitato di tornare a casa almeno una volta con un numero indefinito di scatti, pretendendo magari di condividerle in una di quelle seratine fatte apposta, quella delle proiezioni per pochi intimi, dai, pensateci bene. Le foto del mare, della montagna, della colonia dei bambini, del campeggio, quella degli scout, della gita scolastica, del viaggio aziendale. E qui dove eravate? Ma guarda che bello, come stavi bene? Questo chi è? Ma dai, come è venuto male? Quanti rullini sono passati nelle vostre macchine fotografiche? Quante foto avete incorniciato in soggiorno a ricordare proprio quel viaggio, quel momento magico? Quanti sorrisi falsi avete consumato sullo sfondo del Colosseo, di Trafalgar Square, delle Torre Eiffel, di un tramonto alle Eolie? Quante volte vi hanno chiesto di essere naturali? Guarda in macchina, qui, dentro l'obiettivo. Sì. Senti, sai fare qualche espressione? Sì, tutte. Dica lei. Cominciamo, vediamo un po' allora. Odio. Fammi proprio l'odio, sei cattivo, capito? Dunque. Ah, questo sarebbe odio. Amore, sei innamorato. Fammi vedere, su. Ah, questo è amore. Fermo. Malinconia. Pronti. E quella lì la chiami malinconia, sì. Fai schifo, dai. Adesso sei triste, ti è morta la mamma. No, no, sta bene. Ma no, immagina che ti è morta la mamma, capito? Ah, sì, ho capito, scusi, è nel film. Finito, basta, chiuso, vai. Senta, mi hanno consigliato di farne anche qualcuna nudo, magari figura intera. Nudo te? Ma sei fai schifo anche vestito, vai. Non è facile farsi fotografare quando sai che lo stanno facendo. Almeno per me è così. Quando ti dicono sì, naturale, più naturale, e subito ti si ingessa la bocca in quella smorfia quasi di dolore. Voi come ve la cavate davanti all'obiettivo? 800 24 00 24 per raccontarci in diretta del vostro rapporto con le foto, rapporto da modelli ma anche da fotografi ovviamente, e 349 238 6666 per i vostri SMS. Siete anche voi dei fanatici, eh? Al ritorno dalle vacanze avete sempre un numero imprecisato di pellicole da sviluppare. Pardon, sviluppare una volta. Ormai con le foto digitali non si sviluppano più, si stampano direttamente. Quante ne avete fatte quest'estate? Io sono una tradizionalista. Se una foto mi piace, non mi basta averla sul computer, sul cellulare, sul telefonino, insomma, la devo stampare, la devo toccare, poter toccare. E voi 800 24 00 24 per parlare con noi e le vostre foto, delle vostre foto e dei vostri filmini, e 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ah, ma a proposito di filmini, perché ci sono anche quelli che fanno i filmini. Io ho degli amici che ormai si sono specializzati addirittura nel montaggio. Tornano dai loro viaggi con tanto di quel materiale che poi riescono ad assemblare, ma addirittura con la colonna sonora, con i titoli di coda, insomma, roba da professionisti. Siamo tutti aspiranti registi e potenziali attori. Come hai detto di chiamarti? Barozzi, Antonio Barozzi. Barozzi, con la B? Se non va bene lo cambio. No, e perché? Anzi, guarda qua la fortuna. Nella Cineguida 80 capiti proprio Fayol Brina e Richard Burton. Con Minizio puoi dirti fortunato, no? Beh... Comunque dimmi un po', a che cosa ti senti più portato? Al comico o al drammatico? Ma indifferente, diciamo che ho una certa gamma, ecco. Ok, veniamo al sodo. Occorrono 250.000 lire e sono pure poche. Che c'è? Ti vedi esitante? No. Non ho capito, Sei tra Yul Brynner e Richard Burton, mica pizza e fichi. Mica pizza e fichi. Se poi si scopre anche la vera passione, o meglio il vero talento, ben vengano tutte le prove fatte anche a livello amatoriale. Ma perché anche i nani hanno cominciato da piccoli. Chissà se i grandi registi, quelli che poi da grande hanno fatto davvero il regista, hanno mai avuto problemi di questo genere, di doversi inventare delle scuse per far vedere i filmini delle vacanze, o se si sono mai dovuti difendere dagli amici che volevano annoiarli coi loro capolavori. Lo scopriamo subito, perché è con noi al telefono Daniele Lucchetti. Ciao Daniele. Ciao, ciao, buongiorno. Buongiorno, ci sono delle tecniche di sopravvivenza particolari per questi filmini dell'estate? Ma io in realtà penso che sia veramente cambiato qualcosa con l'avvento del digitale. Prima in un certo senso si tendeva a risparmiare pellicola, si fotografavano solo alcuni momenti, e adesso si tende a fotografare tutto, il piatto di pasta con le vongole, anche scorci inutili. Però questo devo dire che col tempo ha cambiato, come dire, la quantità di materiale disponibile che racconta le vacanze. Ci sono molte più cose da vedere, anche se purtroppo certe volte un occhio ingenuo si torna a casa e si accorge, non so, di non aver fotografato la stanza dell'albergo che vogliono suggerire gli amici, o non so, il bambino piccolo del fratello. Certo. C'è questa sensazione di scattare tutto, poi alla fine rischia di farsi tornare a casa avendo saltato le cose fondamentali. Le cose principali. Ma tu hai mai fatto questo genere di filmini prima di decidere di diventare un regista? Beh sì, assolutamente sì, lo facevo quando c'era il Super 8, quando una bobina di Super 8 costava tanto, quindi c'era una trattativa all'inizio delle vacanze con i miei genitori di quante pellicole saremmo portati dietro, e duravano 3 minuti di Super 8 e quindi bisognava risparmiare. Di fatto per farci entrare più roba possibile il meccanismo era quello di fare inquadrature brevissime. Ma poi non hai mai avuto, immagino, problemi a farli vedere agli amici al ritorno dalle tue vacanze? È un po' l'incubo di quegli anni, la proiezione dei film e la proiezione delle diapositive. Esatto. Oltretutto appunto andavano sempre troppo veloci, c'erano 3 fotogrammi, 1/10 di secondo per far vedere. Per concentrare proprio. Io quello che faccio oggi, per esempio, è che se siamo in a Fontana di Trevi o al Colosseo, perché sto andando per fatti miei, e c'è qualcuno che sta facendo una ripresa troppo scoordinata, in genere gli dico più piano questa panoramica, più lenta. Oppure... Ah, dai dei consigli quindi. Sì, ogni tanto mi succede, come a volte accade che c'è gente davanti al Colosseo che si fa la foto ricordo, ma con il fotografo alle spalle al Colosseo. È il massimo. All'ingresso della metropolitana, e a questo punto arriva l'incapacità di certi fotografi delle vacanze. Bene, ma le tue tecniche di sopravvivenza, per esempio, per quando ti vogliono mostrare i filmati o i filmini degli amici, ti inventi delle scuse o sei così generoso e dai dei consigli? C'è da dire che con gli anni tutta questa disponibilità di materiale ha di fatto azzerato la voglia di farti vedere le fotografie. Almeno a me sono anni che non mi capita che qualcuno voglia farmi vedere le foto delle vacanze. In genere ti mostrano qualcosa sul cellulare o sull'iPhone. Veloce così, fast food insomma, per strada. Sì, il fatto che ormai ce l'hanno tutti e tutti siamo carichi di immagini, le rese di fatto meno importanti, quindi quella proiezione un po' sacrale delle diapositive delle vacanze, che è stata anche presa in giro da Elio e Storie Tese, effettivamente non c'è più, almeno non mi è più capitata. Poi accade che con il computer magari, o su Facebook o su via mail, ti mandino le foto più riuscite ogni tanto. Certo, grazie mille Daniele, allora. Prego, prego. Ciao, ciao, a presto. Ciao, grazie. Solo il suono del mio passo, ma intanto il sole tra la nebbia filtra già il giorno, come sempre sarà. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Settembre si sente, eh? È arrivato ormai. Oggi si parla di foto e di filmini dell'estate, di come si sopravvive alle proiezioni di chi è tornato da un viaggio e ci vuole mostrare ogni singolo istante della sua mirabolante vacanza. Forse la cosa migliore è fare prevenzione, quindi lavorare su chi sta dall'altra parte. Del resto non capita tutti i giorni di incontrare un Lucchetti che dà consigli. 800 24 00 24 per parlare con noi in diretta e 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ne sono arrivati molti, anche molto divertenti. Franca da Udine dice: con la scusa del digitale scatto centinaia di foto e non le stampo mai, così alla fine non mi rivedo mai le foto delle mie vacanze perché non le ho sotto mano. Viva la pellicola. L'anno scorso, questo è Luca da Roma, l'anno scorso abbiamo riversato tutti i Super 8 delle vacanze dei miei genitori e a Natale gli abbiamo regalato un DVD. Adesso ogni domenica mattina se lo riguardano. Oppure quando ho regalato la reflex digitale a mio marito, gli è scoppiata una vera ossessione. Quest'estate ha fatto un reportage del primo incontro della nostra piccola Caterina con l'oceano, magnifico. E il vostro rapporto con le fotografie, con i filmini dell'estate, ma anche dei vostri ricordi. 800 24 0024 per raccontarcelo in diretta e 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ma voi fate filmini o siete più da fotografia, vi fermate alle fotografie? Perché per chi avesse scoperto di avere la stoffa del regista e volesse seguire quella strada, magari proprio con il filmino di quest'estate, potrà servire sapere che l'Associazione per il Cinema e il Turismo di Cecina, in provincia di Livorno, organizza ogni anno a giugno il Festival Cinematografico Europeo Amatoriale e Semiprofessionale. Beh, quest'anno ormai è andata così, ma ci si può sempre pensare per il prossimo anno con il filmino di quest'estate, quindi vi potete anche organizzare con il montaggio per presentare un'opera vera. Per informazioni www.associnemacecina.com, tutto attaccato. Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Per chi invece fosse più da fotografia e volesse avere dei consigli sui propri scatti, la rivista Foto Cult ospita diverse rubriche dedicate alle foto dei lettori e si possono mandare le proprie opere anche solo per avere un parere tecnico estetico. Quindi se avete delle fotografie nel cassetto le dovete inviare a lemiefoto@fotocult.it. Chi invece vuole testimoniare quanto stia cambiando l'Italia, Olivero Toscani vi invita a diventare dei fotografi utili. Utili perché dovete portare una testimonianza. In collaborazione con Salvatore Settis lancia Nuovo Paesaggio Italiano ed è un progetto aperto a chiunque voglia documentare con macchina fotografica, videocamera, telefonino, gli scempi che devastano il nostro paese. Le foto vanno inviate a info@nuovopaesaggioitaliano.it oppure via MMS allo 050 53 25 29 e saranno utilizzate per una serie di mostre, per un concorso fotografico e soprattutto per creare un archivio multimediale. Se invece volete condividere i ricordi della vostra famiglia che custodite negli album, nei cassetti, nelle scatole della memoria, quelle che ogni tanto si va a rovistare per capire che cosa è successo ai nostri genitori, ai nostri nonni, il Dipartimento delle Politiche della Famiglia ha lanciato l'iniziativa Foto Famiglia. Dal 1861 ad oggi, la vostra storia personale che diventa la storia di una nazione. Tutte le foto raccolte saranno esposte a Milano in occasione della Conferenza Nazionale della Famiglia che si terrà dall'8 al 10 novembre e resteranno anche online come un grande album collettivo. La raccolta finisce il 15 di settembre, perciò c'è ancora tempo. Potete mandare anche le vostre foto a www.politichedellafamiglia.it. È un bel modo di mantenere vivo il passato con un tuffo nella materia del tempo attraverso la fotografia, che è come un foglio di presenza con la sua sospensione del divenire in quell'attimo che è poi l'attimo dell'eternità degli affetti. September morn, do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. 10 e 26, oggi si parla di foto e filmini dell'estate, di tutte quelle serate magari passate a casa degli amici, a vedere quanto si sono divertiti in vacanza loro. 800 24 0024 per raccontarci la vostra storia in diretta di noiose proiezioni subite o fatte subire e 349 238 6666 per i vostri sms. Ma visto che si parla di viaggio e di testimonianze, di tracce, come non parlare di Chatwin, che ha fatto della strada la sua casa, riuscendo a produrre dei libri meravigliosi, lui. Noi invece come possiamo utilizzare il nostro materiale, noi che non siamo Chatwin, con tutto il rispetto per gli ascoltatori di Radio 24, tutto il materiale che abbiamo prodotto nelle nostre vacanze, come lo possiamo utilizzare? Beh, un modo c'è. A Genova dal 18 al 20 novembre si tiene la nona edizione del premio Chatwin, dedicato ai reportage di viaggio video, narrativi e fotografici. Ne parliamo con il co-presidente del premio, nonché membro del comitato scientifico, il fotogiornalista Mario Dondero. Buongiorno signor Dondero. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, che cos'è questo premio Chatwin? Il premio Chatwin è un premio che si avvale, diciamo, che riposa sulla figura di uno scrittore inglese che ha sedotto moltissimo, che ha avuto un immenso successo e che era un fotografo, un uomo errabondo, insomma, che in fin dei conti è il premio degli avventurieri, di quelli che vanno in giro per il mondo, il premio dei sognatori, diciamo. Del resto, lo stesso Chaplin è stato un viandante del mondo frenetico, proprio conosciuto un mucchio di paesi, eccetera. Quindi questo premio vuole incoraggiare, in fin dei conti, la curiosità creativa della gente, cioè che si racconti con le immagini quello che si è visto andando in giro per il mondo. Ecco, c'è una parte che è riservata agli autori di video e una parte ai fotografi, diciamo. Però c'è una caratteristica che è più spinta quest'anno di altre volte, che si premia prevalentemente quello che è in qualche modo legato al volontariato, vuol dire alla foto sociale in giro per il mondo, insomma la foto che racconta le miserie della terra. Ecco, quindi ha anche un sapore etico questo tentativo, diciamo. Perfetto, perfetto. E lei, per esempio, la sua tecnica di sopravvivenza a tutte queste fotografie che amici le vogliono mostrare al ritorno dalle vacanze, lei che fa il fotogiornalista. Come faccio a sopravvivere alla noia? Esatto. No, io però noto, tuttavia, che ci sono tanti fotografi alternativi, anche parecchi talenti, gente che fa delle foto interessanti, ce ne sono molti, vuol dire. No, però siccome ho viaggiato abbastanza e mi sono trovato spesso a contatto con fotografi che operavano tutti insieme, per esempio, cioè, che quasi mi scandalizzavano, perché fotografare implica un forte rispetto dell'altro, insomma, no? C'è un aspetto predatorio della foto di viaggio che è abbastanza sgradevole, secondo me, però c'è anche molta gente che fa delle foto umanissime, ricche di sensibilità. Il suo viaggio di quest'anno qual è stato? Se è stato in vacanza? Io quest'anno non sono stato precisamente in vacanza, però sono stato in Scozia sulle tracce di Orwell, che è uno scrittore che amo molto. Oh, che meraviglia! E ha fatto delle foto interessanti allora? Non so se ne ho fatte interessanti, perché non ho ancora. No, però di questi temi che sono collegati con la letteratura, eccetera, mi interessano molto. Poi incoraggerei comunque sempre le persone a occuparsi di qualcosa costantemente, cioè di trovare un tema che è di loro gradimento, che è vicino al loro cuore, diciamo, e fotografare in quella direzione lì fino a farne un'opera, capito? Cioè. Certo, quindi prendere la propria, sì, avere il proprio oggetto. Non fotografare, diciamo, solo in modo ludico, ma anche in modo creativo, in modo documentativo. È bello associare la cultura alla fotografia. Grazie mille, signor Dondero, della sua testimonianza e per le belle parole sulle fotografie. Speriamo di aver incoraggiato qualche ascoltatore a fare delle belle foto. Ringrazio tantissimo. Grazie, buongiorno. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla di foto e filmini dell'estate, si parla di tutte quelle proiezioni per pochi intimi che dobbiamo subire a casa di amici. 800 24 00 24 per raccontarci il vostro rapporto con le foto, con l'obiettivo, per dirci qual è la vostra foto magari alla quale siete più affezionati, se avete un vostro stile, un vostro soggetto ricorrente, oppure 349 238 6666 per i vostri sms. Ne sono arrivati di bellissimi. Anna da Brescia scrive: le foto servono per avere l'illusione che le sensazioni provate in determinati momenti si possano protrarre nel tempo, ma per il fatto stesso che siano le nostre sensazioni, gli estranei non ne potrebbero capire il senso pieno ed è meglio quindi evitare di proporgliele. Oppure Anna da Verona: mio fratello ha mandato al premio Chatwin il suo reportage di viaggio dai mondiali di calcio in Sudafrica, ha scattato delle foto stupende e mia mamma si è tappezzata a mezza casa. Rino da Pistoia: ho regalato la mia macchina fotografica alla mia ex fidanzata, non ho potuto scattare manco una foto delle vacanze di quest'estate, peccato, però ho incontrato una ragazza spagnola favolosa. Qual è il vostro rapporto con la macchina fotografica, con le fotografie dell'estate? Siete di quelli veramente fanatici che tornano a casa con migliaia di scatti per documentare, per testimoniare il vostro viaggio, oppure vi dedicate solo ai filmini? Perché abbiamo parlato anche prima, c'è gente che fa i filmini, fa proprio dei veri e propri cortei cortometraggi. Per esempio, io parlando di stile di fotografia, ho un'amica che fa, come le chiama lei, le fotosceme. Le fotosceme sono fatte rigorosamente con la macchina digitale, perché ormai è quella, perché si deve vedere subito il risultato. E sono quelle sorte di autoscatto che si fanno tenendo la macchina fotografica al contrario, no? La si tiene con la mano, senza appoggiarla su nessun oggetto, e si fotografa il gruppo di amici che sta all'interno dell'obiettivo, però poi si deve vedere subito se sono entrati tutti, se l'angolazione era quella giusta, se di qualcuno si vede solo un occhio, solo il naso, però insomma è divertente. Ma a voi mancano le sorprese dei rullini che si portavano a sviluppare, perché non si sapeva mai che cosa usciva da una vacanza, e l'attesa del risultato era una cosa bellissima secondo me, e poi quando ne usciva neanche una, che tragedia. Comunque, foto e filmini, parliamo oggi di foto e filmini, ma nella storia quante foto e quanti filmini interessanti sono stati prodotti? Primo settembre 1985. Una spedizione franco-americana individua il relitto del Titanic. Vogliamo parlare dei chilometri di pellicola consumati per un viaggio che purtroppo non è mai arrivato a destinazione? Primo settembre 1888. Mancano solo 3 giorni al brevetto di George Eastman per la macchina fotografica che utilizza il rullino. Quanti scatti si sono fatti da allora? Primo settembre 1979. La sonda statunitense Pioneer 11 è la prima a visitare Saturno, passando sul pianeta ad una distanza di 21.000 km. Chissà che foto spaziali al ritorno dal viaggio. Tecniche di sopravvivenza, oggi si parla di foto e filmini dell'estate. Abbiamo con noi al telefono Alessandro da Como. Ciao Alessandro. Ciao, tutto bene? Ciao, bene, tu? Sì, abbastanza, siamo post vacanza, quindi comunque finita l'estate è sempre un po' problematica. Poi oggi è il primo di settembre, c'è un po' di nostalgia. Sì. Senti, ma il tuo rapporto con le foto e i filmini qual è? Ma guarda, il mio rapporto è un rapporto, diciamo, al momento lavorativo. Nel senso che io sono un consulente per viaggiare e quindi mando in vacanza le persone. Ah, quindi io, diciamo, da una parte amo scattare le fotografie, e adesso tra l'altro mi hai dato anche uno spunto parlando di fotografie sceme, perché a me piace molto fare autoscatti col braccio allungato di fronte a me. Esatto, esattamente quindi, quello, la foto scema è quella lì. Quindi comunque vada, trovo gente che mi sempre si propone e mi dice no, ti faccio io una foto, in realtà io voglio farmela da solo, perché è proprio una mia collezione. Ma al di là di quello, ormai il rapporto è professionale, nel senso che io, vendendo viaggi, essendo un consulente di viaggio, poi rivedo i clienti e i clienti giustamente vogliono farmi delle loro fotografie. Ah, quindi non solo gli amici, anche i clienti tu hai? Sì, sì, anche i clienti, anzi direi soprattutto i clienti, perché gli amici mi hanno mollato tutti, chiaramente. hanno mollato perché ai tempi delle diapositive li costringevo a vedere 700-800 fotografie di parchi nazionali. E quindi ti sei fatto dei nemici. Sì, però poi ho mangiato la foglia, quindi giustamente non obbligo più nessuno, e chi vuole viene da me se le vede sul computer. Giustissimo. Invece con i clienti mi sorbisco tante proiezioni, ma devo dire che la cosa mi piace. Ah, bene, vedi, allora non hai bisogno di tecniche di sopravvivenza particolari tu. Ma la tecnica di sopravvivenza è quella che poi ogni tanto vado e quindi ce le faccio anche io le mie, e adesso ho imparato a non farle vedere a nessuno. Giusto. Ai pochi intimi. Grazie mille Alessandro. A te. Buon ciao. Viaggio. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. E oggi si parla di foto e di filmini, ma e si parla anche di amici ai quali farli vedere. Ma ve li ricordate gli amici più famosi della commedia italiana? Oddio, un granché non è mai stato. Però a me mi piaceva. Anche a me. E a me no. Ma poi è proprio obbligatorio essere qualcuno. Porca puttana, come vorrei che venisse fuori un funerale da fargli pigliare un colpo a tutti e due a quelli. E migliaia di persone, tutti a piangere. E corone, telegrammi, bande, bandiere, puttane, militari. Abbiamo con noi al telefono il regista Federico Micali, che sta per presentare al Festival di Venezia un cortometraggio dedicato proprio ad Amici Miei. Federico? Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno Federico. Allora, che cos'è questo tributo ad Amici Miei che stai preparando? Ma senti, questo tributo ad Amici Miei è stata veramente una zingarata, ovvero il 6 giugno scorso in Piazza Santo Spirito a Firenze ci siamo trovati in oltre un migliaio di persone che diciamo sono arrivate da un po' da tutta Italia per rigirare la scena finale di Amici Miei, perché esattamente come l'avrebbe voluta Gastone Moschin. Noi abbiamo rifatto esattamente, poi il funerale ovviamente come doveva essere per il film è andato in maniera diversa, ma in un momento di rinnovato interesse per Amici Miei abbiamo voluto cercare di dare un nuovo finale, per cui diciamo una sorta di tributo collettivo a questa pellicola, per cui abbiamo rigirato la scena finale veramente in maniera un po' onirica e surreale, come l'avrebbe realmente voluto Moschin. E il bello è che Monicelli ha detto: ragazzi, ma questa è stata un'idea fantastica, l'avessi pensata io a suo tempo in questo modo, sarebbe stato bello finire davvero in questo modo. E così, e noi gli abbiamo detto: no, guarda, meno male che se la facevi così poi non potevamo farla noi. Il tributo, esatto. Ma senti, tu hai delle tecniche di sopravvivenza particolari per gli amici che ti vogliono mostrare questi filmati al ritorno dalle vacanze? Ma senti, allora, se sei regista hai sempre amici che ti vogliono fare vedere film e filmini per chiedere consigli su come girare questi filmini, e in realtà è una scusa bieca, perché poi in realtà è un modo per metterti su una poltrona e sorbirti ore di spiagge, città, montagne e quant'altro, famiglie felici che ridono e che sono sicuramente delle immagini bellissime, ma che sono bellissime per loro non per gli spettatori. C'è costretto a sedersi a vedere davanti. Così come un'altra cosa terribile credo sia la condivisione sui vari social network della propria vita privata. Ma senti, invece le zingarate, è la prima zingarata che tu, l'hai fatta diventare un cortometraggio, ma ti è mai capitato di filmare una zingarata tra amici? Di filmare una zingarata tra amici direi di no, non mi viene in mente niente. Poi succede che quando ci lavori alla fine con il video diventi un po' refrattario a utilizzarlo in ogni contesto, per cui in qualche modo succede una cosa di brutto, no? Perché ogni volta che prendi la telecamera in mano ti senti automaticamente a dover controllare il fuoco, il bilanciamento del bianco, cioè tutte queste cose che ovviamente sono fondamentali quando ci lavori, ma sono completamente inutili quando fai riprese così di momenti di vita, no? Ti perdi con comunque il momento cruciale per stare a guardare i settaggi della macchina e dopo un po' ti realizzi che è veramente stupido e quindi lasci perdere. Federico, ma un po' di fotografie le fai però, sì? No, ma faccio anche video, che poi non riesci a uscirne da questo criterio, però comunque sia cerchi di delegare a qualcun altro, no? Alla fine diventi te l'amico antipatico delle vacanze che dice: senti, per cortesia la fai te, visto che io comunque sto sempre con la telecamera in mano. Ultimamente ho comprato una cosa che è assolutamente divertente, anche se la qualità è pessima, che è la videocamera da occhiali, che quella ti risolve il problema, perché ti infili gli occhiali e lei riprende, no? Ovviamente poi le immagini sono orribili, però pensi che comunque sia è un modo intelligente e interessante di farli, anche se poi ovviamente quando lo vai a rivedere non è assolutamente così. Ma l'ultima zingarata, il tributo ad Amici Miei, verrà presentato venerdì, vero? Sì, viene rappresentato venerdì in anteprima assoluta a Venezia alle giornate degli autori, quindi alla Villa degli Autori. E poi lo possiamo vedere, quando lo possiamo vedere noi? E poi ce la tireremo un pochino, faremo come i film di Hollywood, no? Che magari vengono presentati a un festival e poi in sala escono qualche mese dopo. In realtà vorremmo presentarlo poi a Firenze, come giusto che sia, ma vorremmo presentarlo in una serata dove la clip, il cortometraggio di 6 minuti, viene accompagnato da una sorta di documentario backstage che mette insieme le varie riprese di quella giornata, con una serie di interventi di Gastone Moschin, di Mario Monicelli e di tanti altri che hanno partecipato all'Amici Miei originale, che quindi fa una sorta di documentario di accompagnamento alla clip. Verso novembre-dicembre faremo questa serata, dopodiché tutto sarà messo online. Chi è a Venezia faremo un corteo funebre all'interno del Lido per celebrare ancora una volta il compianto Perozzi. E si può partecipare, Venezia, quindi? Assolutamente, può partecipare, ovviamente vestito a lutto in maniera eccentrica come Come soltanto come esige la zingarata vera. Grazie mille Federico, a presto. A presto, grazie. Ciao. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 10:48, oggi ad agosto tecniche di sopravvivenza, si sta parlando di foto e filmini dell'estate, dei viaggi, di tutti quegli scatti che vanno a riempire i cassetti, gli album, le cornici in soggiorno. Quanto vi piace testimoniare con una foto la vostra vacanza? Quanto andate fieri delle vostre foto? Come direbbe Baudrillard, filosofo francese, siete sicuri di essere voi a voler fotografare proprio quella scena? O non è lei invece che vuole essere fotografata e voi non siete altro che la comparsa della sua messa in scena? Pensieri forse un po' troppo profondi sulla fotografia per chi come noi sta cercando delle tecniche di sopravvivenza solo per delle foto delle vacanze, ma sono riflessioni che ci servono per introdurre il prossimo ospite, che di professione fa proprio il fotografo, Efrem Raimondi. Ciao Efrem. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Senti, ma tu come sei sopravvissuto negli anni a questi filmini o queste foto che ti facevano vedere gli amici al ritorno dalle vacanze? Tu che fai il fotografo poi? Sì, guarda, ci sono due epoche distinte, assolutamente. Il pre-digitale, e assistevi sostanzialmente delle serate di proiezione di diapositive. Le diapositive, sì. Eccetera, eccetera, eccetera. Credo che più o meno tutti siamo incappati in questa circostanza. E il digitale, cioè l'epoca contemporanea, dove in realtà vedi un sacco di, su vari software i più disparati possibili, vedi comunque un sacco di immagini, direi che ne vedi anche molte di più. La sopravvivenza, in genere, se erano persone che mi conoscevano diventava molto difficile spacciarsi per altro, se erano persone che non conoscevo o che non mi conoscevano mi spacciavo per tutt'altra cosa, e per cui riuscivo a sopravvivere. Ma perché ti chiedevano anche magari dei consigli? Tu sì, che fai? Ai tempi della diapositiva, e comunque in questo non è molto cambiato, ogni immagine c'era la presentazione dell'immagine, come era stata realizzata, la tecnica di realizzazione, se mi trovava concorde o meno, e quindi diventava veramente un supplizio. La differenza è che se non altro quando c'erano le proiezioni di diapositive accadevano sempre in penombra o anzi al buio. Potevi sonnecchiare. Come, prego? Potevi sonnecchiare, dico. Sì, esattamente, questo era un escamotage che funzionava, però ogni tanto bisognava che insomma venissi in qualche modo destato, perché inciampare insomma in un'immediata e repentina accensione della luce con gli occhi chiusi sarebbe stato veramente terrificante. Senti Efrem, ti è mai capitato anche in vacanza invece di essere fermato per caso dai soliti turisti che ti chiedono fa una foto? Mi capita tuttora e non ho nessun problema a sottrarmi, nel senso che non mi sottraggo, la faccio senza nessun tipo di difficoltà insomma. Se sono in giro con una compact camera mi capita spesso di fotografare persone all'interno di un contesto, di fotografare persone che stanno fotografando, questo sì, per cui diventano poi il soggetto dell'immagine che vado a realizzare. Ma come si capisce se si ha un po' la stoffa del fotografo? Perché magari gli ascoltatori adesso che sono tornati a casa con questi milioni di pixel messi su queste macchine digitali, come dici tu, ne hanno un sacco di fotografie e vogliono capire se possono diventare dei fotografi, se è meglio invece rimanere così degli fotografi amatoriali. Come si capisce se c'è la passione? Si capisce semplicemente confrontandosi con quello che il mercato propone. Ora, questo non è il periodo sicuramente di migliore comparazione, nel senso che c'è parecchia fuffa in giro, detta proprio alla milanese, per cui diventa abbastanza difficile fare una verifica, o comunque non è più verificabile come prima. E in genere quello che accadeva e quello che si potrebbe fare comunque tutt'oggi è confrontarsi con quello che viene prodotto in giro per il mondo, a partire dai magazine, per andare in altre circostanze e verificare se così di primo acchito il proprio percorso iconografico è all'altezza o meno di quello che viene comunque prodotto. Questo è un sistema. Certo, dove le possiamo vedere le tue fotografie? Ma le mie fotografie si possono vedere su varie riviste, sono un fotografo tra l'altro contrasto, per cui anche sul sito di contrasto c'è parte del mio archivio. In genere io collaboro con dei magazine, per cui io sono un ritrattista, quindi lavoro con quelle che gli americani definirebbero le celebrity, e quindi in genere lavoro con loro, oppure anche con appunto rockstar per le quali produco magari degli album o altre cose di questo genere, la campagna stampa che in genere precede proprio la presentazione dell'album, eccetera eccetera eccetera. Per chiudere, una tecnica di sopravvivenza con uno di questi VIP? Ah, con uno di questi? Sì, quelli che hai fotografato. la pazienza, la calma. Io non sono, cioè, malgrado sia nato il 16, anzi forse proprio per il fatto che sono nato il 16 agosto, nascendo in un giorno di questo genere qui, inevitabilmente ho imparato a essere molto molto tranquillo. Insomma, non, se è una cosa che non dipende da me ma dipende da altri, da circostanze particolari rispetto alle quali non posso fare assolutamente niente, semplicemente sto lì e attendo che l'evoluzione appunto degli eventi, insomma, e vedere come si mette. Ma io sono molto tranquillo sul set, non ho particolari, come dire, isterie o quant'altro. Bene, grazie mille Efrem, allora, sì. E buon inizio di settembre a questo punto. Grazie mille. Grazie, ciao. Ciao, buona giornata, ciao. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Eros da Verona ci chiedeva dei consigli su alcuni corsi di fotografia nella sua città. Allora, l'informazione che ti possiamo dare è di informarti magari al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri. Il numero di telefono è 045-800-7490 oppure la mail scaviscaligeri@comune.verona.it. Ci sono un sacco di messaggi relativamente alle fotografie. Adriano ci scrive: onore al chimico francese Louis Daguerre, spero si dica così, inventore nel 1839 di quella che sarà la madre di tutte le fotografie, la daguerrotipia. Oppure ci danno anche dei consigli. Fiammetta da Roma ci dice: posate la testa sul terreno, indirizzate il mirino su un soggetto, sotto un albero, vedrete espressioni diverse. Ho immortalato mio figlio bambino, sfondo i tetti di Firenze, il tempio di Giove a Terracina, all'iscafo e olie. Non mostro a nessuno, le ammirano tutti, inquadrate le migliori alle pareti di casa mia. Ma adesso vediamo le nostre tecniche di sopravvivenza. Uno. Al ritorno da un viaggio portate sempre anche del cibo da condividere con gli amici. Serata degustazione prodotti tipici fa più audience di serata proiezione fotofilmini. 2. Niente poi ti vieta di estrarre il computer o il proiettore sul più bello per allietare i tuoi ospiti con i tuoi scatti. 3. Controlla sempre un paio di volte la selezione delle fotografie che vuoi mostrare. 4. Se comunque ti sfugge una di quelle super proibite, un ops davanti agli amici ci sta. 5. Se ti sfugge invece davanti ai genitori, a meno che non siano aggiornati sulle tue pudenda, nega di essere tu. Bene, anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata del primo di settembre. Abbiamo parlato di foto e filmini dell'estate. Ma se non sapete che cosa fare oggi, se non dovete organizzare la serata di proiezione di diapositive, potete sempre iscrivervi al Bed and Sharing per il Milano Film Festival, che si terrà dal 10 al 19 settembre a Milano. Stanno cercando dei posti letto per registi e gli appassionati di cinema che arriveranno da ogni parte del mondo per partecipare proprio al Milano Film Festival. Così magari i filmini delle vostre vacanze li fate vedere a loro. Mettete a disposizione il vostro divano, un posto letto o una stanza. Addirittura, se non avete il letto, ve lo forniranno loro. Basta solo essere disponibili. Avrete diritto a 2 abbonamenti gratuiti per il Milano Film Festival. Per maggiori informazioni scrivete a info@bedsharing.org. Ringrazio come sempre i miei grandi compagni di viaggio, Vittoria Mussini e Laura Faggini in redazione e Roberto Scaltritti in regia. Buona giornata, a domani. Allora ci vediamo questa sera, una serata fra amici, una chitarra e uno spinello. Amici, purtroppo no, questa sera sono invitato a casa sua per vedere le diapositive del mare delle sue ferie.